immagina la calma di un pensiero bianco, se percorri ad occhi chiusi il buio. Non sei mai riuscita a sentirti come se ci fosse lì qualcuno accanto a te.